get to give what I'm after till the day I die. La serata di questa sera ha un tema un po' diverso, no, insomma, un po' particolare, no? Insomma, questo tema sull'incontro tra la mistica orientale e il rock. Come già un'altra volta mi era successo, vado su internet a cercare informazioni. Ah, la prima cosa che mi appare è Sky Stone and Songs, mistica. No, va bene. C'è qualcosa che mi sfugge. Va bene, però insomma. È una cosa che mi piaceva fare, insomma, chi segue gli incontri del Friday, chi segue gli incontri che tengo in maniera specifica io, insomma, sa che insomma sono un po' i temi che ho messo, sono un po' rincorsi anche in questi ultimi anni quando abbiamo parlato di altri artisti o di altre tematiche. E quindi alla fine questa sera ho deciso di coniugare questi due aspetti che possono essere un po' lontani, no? Insomma, nell'immaginario. Possono essere anche neanche così vicini, però alla fine questo incontro c'è stato, ed è stato un incontro molto proficuo, che ha dato dei frutti molto importanti, addirittura insomma, probabilmente il rock così come lo intendiamo noi oggi, o la musica rock così come la intendiamo noi oggi, se non ci fosse stato questo incontro mediato da tutta una serie di altri fattori, no? Tutta un'altra serie di motivi che magari vediamo, probabilmente non sarebbe così come oggi l'abbiamo, come oggi ce l'abbiamo, insomma, come oggi ce lo godiamo. Allora, quando ho pensato a fare questa serata, ho trovato più difficoltà in realtà di quanto pensassi, no? Di poter coniugare questi due elementi. Il problema è che le filosofie orientali già di per sé incutono un certo timore, no? Insomma, filosofie orientali, io non sono un filosofo, quindi mi approccio da neofita a questo mondo. E quindi il rischio è quello di rimanere molto in superficie, di rimanere insomma su tematiche spero non scontate, ma insomma sarà un po' difficile entrare nella profondità di certi temi che di per sé sono temi così forti, così importanti, così, che sono migliaia di anni che persone ben più degne di me hanno dedicato la loro vita a questo studio, a questo cammino di ricerca che io cerco di coniugare con il mondo più frivolo che è quello del rock. Allora ho detto, come parto, che faccio con quella sera da lì, perché insomma i temi sono talmente tanti, un'ora e mezzo, due ore, vola in un attimo. Allora ho pensato di individuare una serie di parole che vengono dall'Oriente, che vengono dal mondo indiano, piuttosto che dal mondo giapponese, piuttosto che dal mondo cinese, taoista, eccetera, che sono comunque entrate nel quotidiano di noi tutti. O me sono parole che sono entrate nel lessico comune, penso, di tutti noi che siamo qui presenti. Tipo parola karma, no? Tutti usiamo la parola karma, no? Oppure la parola guru, o la parola yoga stesso, o la parola avatar, o nirvana, insomma, no? Sono parole che o me sono entrate nella lingua parlata italiana nostra, nel nostro quotidiano. Allora ho detto, cerco una serie di parole, su queste parole poi provo a costruire un discorso e provo a vedere come la musica rock in qualche modo ha espresso questi concetti legati a queste parole, no? Se ha colto nel segno oppure se è rimasto soltanto un approccio, diciamo così, di semplice empatia o di semplice curiosità, no? Diciamo che come spesso, come quasi sempre succede, c'è sia una cosa che l'altra, cioè c'è sia gli artisti o gruppi che sono entrati nella profondità dei temi, che hanno fatto di questi temi alla fine una filosofia di vita, no? Pensiamo a George Harrison, no? o altri personaggi non meno famosi e non meno importanti, e altri, una miriade di altri gruppi, una miriade di altri artisti che sono entrati in contatto con le filosofie orientali, son tanto o per moda, no? C'è stato un periodo in cui questo incontro con l'Oriente era anche di moda, no? Pensiamo alla fine degli anni 60, così, o per semplice curiosità, o soltanto per una toccata e fuga. Prego. Sì? Abbiamo iniziato. Okay. Non sappiamo neppure di che si tratta, però noi siamo allora come mai siete qua? Di tutto, eh? Ma che bello! Siamo proprio venuti così. Il caso non esiste, però siamo qua. Bravi. Questa frase qui a Rimè, ragazzi, quale? Il caso non esiste, quindi voglio dire, un incontro, una vita. Parliamo di mistica rock, di mistico orientale rock. Sono serate che noi facciamo in negozio da qualche anno, il venerdì sera, ogni due settimane, su vari temi che ruotano intorno alla musica che ci piace di più, diciamo così. A volte facciamo degli approfondimenti su degli artisti, a volte facciamo degli approfondimenti su certi dischi. Questa sera facciamo un approfondimento, in realtà, insomma, un excursus, diciamo così, sul mondo che ha portato ad unire le strade del rock con le strade dell'Oriente. E quindi facciamo questa serata. Ci abbiamo l'accompagnamento del nostro Bonzo, il nostro Maharishi Budu Shankar, Ravi Budu Shankar Maharishi Mahatma. Abbiamo iniziato con Claudio Rocchi, niente. C'è anche Claudio Rocchi, se ce la facciamo arriveremo stasera. C'è qua, è qui. Dov'è? Non lo vediamo, ma c'è. Ah. Allora, abbiamo iniziato con Carlo che ci ha fatto sentire il suono del sitar e gli ho chiesto specificatamente di portare lo strumento, un po' perché lo strumento di per sé è molto bello e un po' anche per entrare nella serata, perché è proprio nel momento in cui questo strumento indiano, della tradizione indiana, entra dentro una canzone, che è una canzone dei Beatles, adesso vediamo anche qual è, che è questo rapporto, questo incrocio di strade inizia a prendere forma. La musica rock arriva all'incontro con le mistiche orientali in un momento in cui forse era quasi dovuto questo incontro, no? C'è già stato nel mondo dell'arte, cioè alla fine degli anni 50, gli anni 60, così, un mondo letterario, un mondo poetico, un mondo anche pittorico, artistico, che già aveva avuto questa fascinazione per l'Oriente e già aveva avuto contatti, diciamo così, con modalità del pensiero orientale. E soprattutto la letteratura, soprattutto la poesia, pensiamo a tutta la Beat Generation, a Kerouac, no? Se voi ci abbiamo anche delle immagini, ho messo delle immagini. Questo c'è Kerouac che scrive On the Road, e poi il romanzo che scriverà successivamente sono I vagabondi del Dharma, è già nel titolo del... c'è anche un'altra copertina forse, già nel titolo del libro si fa riferimento a parole che vengono a questo mondo orientale. Non c'è solo la Beat Generation, non c'è soltanto Kerouac, ci sarà Ginsberg, che è una delle figure chiavi, no, all'interno di questo incontro tra Occidente e Oriente, tra cultura giovanile o controcultura, all'epoca si chiamava controcultura giovanile, e il mondo dell'India, che fa un po' da ponte, no? Uno dei padrini, una delle grandi figure che fanno da padrini di questo matrimonio, se così vogliamo chiamare, di questo incontro fra questi due mondi. E prima o poi ci sarà da fare una serata su Ginsberg e sulla Bigine. Ricorre già troppe volte. L'abbiamo già incontrata mille volte, alla fine, insomma, un approfondimento, una serata dedicata a loro andrà fatto. Sono molti, insomma, diciamo così, i poeti e gli scrittori, sia americani che inglesi, che fra la fine appunto degli anni 50 e inizio anni 60 si incamminano, diciamo così, idealmente o anche proprio fisicamente verso Oriente. Pensiamo a Hermann Hesse, no? Al Siddhartha di Hesse o ai suoi viaggi in India. Allora, tutti questi elementi contribuiscono a creare una sorta di crogiuolo, così, no? di fermento che tiene vivo, insomma, questo contatto con l'Oriente. E già anche la musica, prima del rock, ha attinto a questo mondo. Pensiamo a un disco fondamentale come A Love Supreme di John Coltrane, che è del 64, mi sembra, dove c'è un incontro con la mistica orientale. Oppure in ambito della musica colta, della musica d'avanguardia, Terry Riley piuttosto che la Monty Young, che peraltro abbiamo visto, ne abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita sulla serata sui Velvet Underground, che è stato il maestro di John Cale, no? e che ha portato il pensiero della musica modale, di questa musica ripetitiva, di questa musica ipnotica all'interno dei Velvet Underground. Ricordiamoci che Velvet Underground, il primo disco del Velvet Underground, anche se esce nel 67, l'abbiamo ricordato la serata sui Velvet, era già pronto agli inizi del 66, l'hanno inciso in due o tre giorni verso il febbraio o il marzo del 66, poi in realtà è uscito un anno dopo per tutta una serie di motivazioni legate ad una, anche, insomma, lasciamo perdere, l'abbiamo ricordato, insomma, una serie di disguidi, chiamiamoli così, però era già pronto quello. Quindi significa che anche in ambito della musica americana, nello stesso momento in cui i Beatles soprattutto Harrison e John Lennon si avvicinavano a questo mondo, c'era nell'aria questa sorta, no, di questo, come se un incontro fosse scritto, no? Allora, diciamo che così iniziamo ad ascoltare un po' di musica. Già l'abbiamo ascoltata in realtà, quella vera, che vibra veramente. La prima canzone in cui lo strumento del sitar entra dentro una canzone pop, quindi non una canzone che viene dal mondo del jazz o dalla musica colta, quindi la musica importante, mentre nella musica leggera, quella cosiddetta musica leggera, è, la possiamo mettere, Norwegian Wood, che è questa. La canzone è su Rubber Soul dei Beatles, l'ascoltiamo e poi da qui poi riprendiamo il discorso. Tanto sentiamoci questo. Say he won't let me. adesso, Carlo. Questo primo incontro, diciamo così, tra l'Oriente e la musica pop attraverso questa canzone, che è una canzone di John Lennon, è più che altro un gioco, cioè una curiosità. George Harrison suona il sitar, in realtà poteva, come dice Carlo, suonare anche il mandolino, cioè inserisce all'interno di una canzone che ha una struttura pop classica, come quella che è tipica dei Beatles, uno strumento altro. Allora, il fatto che fosse un sitar poi ha anche un suo perché, però è suonato in una maniera piuttosto semplice, molto come da chitarrista, come se fosse una chitarra, un po' come la suona da Carlo. non so ravishank. Però è un primo incontro, qualcosa inizia i Beatles nel 65 sono all'apice del loro successo, no? Sono il più grande gruppo pop dell'universo conosciuto, sono adorati da milioni di fans, di ragazzine e di ragazzini che vedono questi quattro ragazzi come... La Beatlemania, insomma, la conosciamo tutti. Cosa è stato l'impatto non solo nell'ambito musicale, ma nell'ambito culturale, nell'ambito storico, nell'ambito antropologico anche. Cioè, è stata una rivoluzione in tutti i sensi. E quindi introdurre uno strumento che proviene da un altro mondo è stato all'inizio un gioco, ma un gioco che poi ha portato a dei frutti molto importanti. Harrison, insieme a John Lennon, sono i due dei quattro Beatles quelli che più sono vicini ad una ricerca interiore, si interrogano, hanno bisogno di dare delle risposte esistenziali, cioè alla fine sono milionari, hanno tutto quello che possono avere, sono i ragazzi più famosi del mondo, sono i ragazzi, no, più conosciuti, più amati, più adorati del mondo, eppure in fondo questi due ragazzi... ancora soffrono, no? Non lo so, cioè, probabilmente c'è ancora qualcosa che non li completa fino in fondo. Harrison inizia poi ad andare a scuola di sitar da questo maestro che tutti conosciamo, che era Ravi Shankar, che mano a mano lo inizia non solo allo studio e alla conoscenza dell'uso dello strumento del sitar, ma lo inizia allo studio e alla conoscenza anche delle filosofie orientali, indiani soprattutto, no? Ravi Shankar è un indiano, gli dà dei testi che Harrison divora, si appassiona a queste tematiche, insomma è sempre più dentro a questo mondo di una ricerca esistenziale, di una ricerca spirituale, di un cammino che colmi un vuoto che sente comunque dentro di sé. È anche vero che in questo periodo, è anche il periodo cosiddetto psichedelico dei Beatles, o il periodo psichedelico della musica pop rock, no? C'è un grande uso di LSD in questo periodo, ne fanno grande uso sia John Lennon che George Harrison, e probabilmente anche gli altri due Beatles, ne fanno grande uso migliaia se non milioni di ragazzi e di persone intorno a questo mondo della cultura alternativa, e trovano nell'utilizzo di questa chimica un prodotto per aprire la loro mente, per espandere la loro mente, per frantumare, per rompere tutta una serie di schemi, per rompere tutta una serie di lacci, lacciuoli, ed espandere una visione più ampia, una visione più ampia che non è soltanto più prigioniera, diciamo così, del mondo della musica pop, no? I Beatles da lì in poi, da Rubber Soul in poi, da Revolver, che sarà il disco dell'anno successivo, iniziano veramente a costruire una musica che non si era mai sentita prima, cioè rompono con il mondo della musica pop leggera, o comunque non rompono definitivamente, ma legandosi al mondo della musica pop leggera la fanno diventare grande. Una musica che fino ad allora era una musica non presa tanto in considerazione, no? dalle alte sfere della cultura, quella con la C maiuscola, no? La musica leggera, la musica pop, era una musica per bambini, una musica per ragazzini, per adolescenti, per brufolosi e brufolose bimbi e ragazzine che inseguivano miti fasulli fatti di carta. Lo stacco che c'è fra una canzone come Norwegian Wood che abbiamo ascoltato ora e la canzone che andiamo a ascoltare ora, che è la numero 2, Tomorrow Never Know, che è la prima canzone scritta per l'album successivo, che è Revolver, e sarà incisa però in fondo all'album, in questo stacco fra questa canzone, Norwegian Wood, e la canzone che ascoltiamo ora, c'è tutta la differenza che c'è tra il pop, che è musica leggera, e il pop che diventa adulto. Una musica che diventa e che si confronta con la grande cultura, con le grandi arti, no? Non è più un'arte di serie B, la musica pop, ma con questa canzone diventa qualcosa che universalmente sarà riconosciuto come una canzone, no? Straordinaria, forse la canzone più innovativa dei Beatles, forse la canzone è la canzone chiave per, no? Che apre il secondo periodo, quello aureo dei Beatles, e quindi il periodo aureo della musica pop rock. Una canzone questa, che il testo è sempre una canzone di John Lennon, dove i contributi degli altri sono molto, molto attivi, molto importanti. Lennon, in quel periodo che faceva molto uso di LSD, si era appassionato ad un libro che si chiama il libro è di Timothy Leary. Dopo mi verrà il titolo, che è un libro che è diventato un libro importante della cultura dell'epoca, che si rifaceva in parte al libro tibetano dei morti. Allora, questa canzone, il testo non è così originale, perché il testo di Lennon riprende quasi pari pari il libro tibetano dei morti, però è la prima volta che all'interno di una canzone pop, cioè Norwegian Wood, che è già una canzone, no, di un certo spessore, una canzone molto bella che tutti amiamo, ma alla fine di cosa parla? Parla i temi che fino ad allora la musica pop ha cantato, cioè di un ragazzo che porta a casa la sua ragazza, che cerca di rimorchiarla, che cerca di farci una serata, e questa si innamora, cioè la cosa che la colpisce di più sono i mobili, no, di legno norvegese che trova in casa, e poi la serata va in bianco, la mattina dopo si ritrova senza in realtà aver concluso, no? Cioè, e poi alla fine le canzoni pop parlavano di questo, no? Parlavano di divertimento, di andare in giro, di rimorchiare le ragazze, cioè, non è che parlavano di tanto altro. Questo alla fine, con il sarcasmo, con l'ironia, insomma, con il gusto tutto di John Lennon, alla fine la mattina dopo dà fuoco a questo legno norvegese, si riscalda con questi mobili, insomma, no? Alla fine trova modo di riscaldare, visto che non ha trovato modo di riscaldarsi col corpo della ragazza, si riscalda con il legno norvegese. Insomma, le canzoni pop alla fine parlavano di questo, no? In maniera un po' più o meno ironica, un po' più o meno letterata, più o meno importante, ma alla fine il pop era divertirsi, andare a mangiare il gelato, andare sulle macchine, rimorchiare e basta. La canzone che ascoltiamo adesso è una canzone che parla di tematiche completamente nuove, cioè entra nel mondo di una filosofia come quella del libro tibetano dei morti e apre una serie di interrogativi, una serie di domande, una serie di temi che fino ad allora il mondo della musica pop e i ragazzi, i milioni di ragazzi che ascoltavano i Beatles e non solo i Beatles ancora non avevano conosciuto. Allora proviamo a sentire la canzone, ce lo ricordo, aspetta un secondo. Ce lo ricordava anche Carlo quando si fece la serata sui Beatles. È una canzone estremamente complessa, estremamente difficile, estremamente aspra. Non è una ballata, non è una canzone d'amore. Sia nei testi ma anche musicalmente. C'è tutto un lavoro sperimentale che i Beatles fanno insieme a George Martin, che è il produttore del disco. Iniziano a lavorare con lo studio di registrazione. Lo studio di registrazione in quel momento diventa un nuovo strumento. Iniziano a lavorare con i nastri, iniziano a registrare dei loop sui nastri, iniziano a filtrare le voci. Sentiamo la voce di John Lennon che è filtrata da mille, effettata in mille modi, no? Siamo sempre nel 65, 60, 66, non ci sono le strutture elettroniche, i marchingegni che ci sono oggi negli studi di registrazione, ma l'impatto è devastante, inarrestabile, una canzone che veramente è epocale. C'è la chitarra che viene suonata e poi viene registrata e poi viene incisa all'incontrario, ci sono frammenti di voci, ci sono frammenti di risate, cioè tutta una serie batteria loop. c'è la batteria di Ringo Starr a cui vengono allentati i tom e le pelli dei tom per dare questo suono molto, no, che ricorda un po' anche questi ritmi tribali, questi suoni più arcaici, più antichi, più ancestrali, no? C'è questo lavoro, un lavoro sul particolare che è straordinario in questa canzone. Proviamo ad ascoltarla. Scarto che c'è tra questa canzone e tutta la produzione prima dei Beatles è evidente, insomma non è una canzonetta che si poteva ascoltare alla radio, no? O che poteva essere messa al jukebox, è una canzone molto complessa, molto piena di rimandi, di elementi molto particolari, questo finale con il piano honky tonk, l'assolo di George Harrison così acido, così distorto, insomma c'è tutta una serie di elementi che scrivono la storia del rock. Cioè in questa canzone c'è già tutto il rock che di lì in poi verrà, no? Cioè questa sorta di rifiuto da parte dei Beatles di tutto ciò che c'è stato prima, di una canzone canonica, di una canzonetta leggera che fino dall'inizio del secolo fino allora è stata la canzone pop, no? Cioè c'è veramente un prima e un dopo questa canzone, secondo me. Non solo nella storia dei Beatles, ma nella storia della musica. È la canzone che fa crescere la musica pop, no? Che la fa diventare adulta, che la mette alla pari delle altre grandi arti, delle altre grandi musiche, come se fosse la musica contemporanea o la musica jazz, no? La musica che allora sembrava importante rispetto alla musica pop. Il testo, dicevo, è un testo ripreso appunto dal Limbo Tibetano dei Morti, è stato letto per... Ci suona? Sì, benissimo. È stato letto per... come un inno all'LSD, però se leggiamo il testo e lo mettiamo invece in relazione alle tecniche della meditazione, che sono l'altra grande scoperta che fanno i Beatles, Harrison in quel momento, o anche Lennon, perché la canzone per la fine di John Lennon non si, no, allora la leggo, dice: spegni la tua mente, rilassati e abbandona, e abbandonati alla corrente. Non è morire, non è morire. Metti da parte tutti i pensieri e arrenditi al vuoto. Prima la canzone all'inizio si doveva intitolare Il vuoto, The Void. È risplendere, che tu possa capire il significato del profondo, è esistere. Non è vivere, gioca il gioco dell'esistenza fino alla fine del principio, del principio, del principio, del principio. Insomma, la tematica è una tematica che potrebbe essere letta come una tematica, no, legata alla psichedelia, ma potrebbe essere letta anche in ambito di una ricerca di un vuoto della mente, no? Di un, non è morire è legato alla morte dell'io, no? Che tutto compenetra la nostra vita, che tutto che è sempre tutto rapportato, no, a se stesso. Lui è il centro del mondo, mentre in realtà se si va oltre anche questa gabbia dell'io, oltre lo spazio del silenzio, dicono i testi, si trova un nuovo mondo, no? Si trova un centro ancora più grande. Allora, la canzone è una canzone appunto straordinaria, l'abbiamo detto, epocale, che traccia questo nuovo modo di intendere la musica da parte dei Beatles. I Beatles da quel momento un po', lo sappiamo tutti, non faranno più concerti, insomma, allora non voglio raccontarvi la storia dei Beatles. Però ancora una canzone dei Beatles, se poi chiudiamo questa parte introduttiva, per capire e anche per vedere un po' questo processo che inizia con l'ingresso del sitar in Norwegian Wood e arriva ad una canzone nell'album Sgt. Pepper, che è la numero 3, Within You, Without You, una canzone questa volta di George Harrison, scritta e suonata solo da George Harrison. Gli altri tre Beatles non ci sono nella canzone. Harrison, che è sempre più dentro il mondo delle filosofie orientali, che è sempre più dentro e ha sempre più bisogno di rapportarsi a questo mondo dell'India e delle sue concezioni filosofiche, anche attraverso Ravi Shankar, poi da lì a poco incontrerà anche il suo maestro, il suo guru, che sarà un personaggio che andiamo a vedere dopo. È una canzone questa che è prettamente una canzone indiana, una canzone... è suonata da Harrison insieme a un gruppo di musicisti indiani, i Beatles, dice, gli altri tre, siamo già al momento in cui i Beatles incominciano, insomma, a essere non più quell'unione di quattro, no? Ma comincia ognuno a far vedere e a far pesare la propria personalità. Harrison, che nei primi anni era rimasto un po' soffocato dalle figure di Lennon e McCartney, inizia, no, ad aprire delle piccole porte, delle piccole spirali, che poi in realtà saranno dei grandi spirali, no? Dalle porte socchiuse di Harrison entra un fiume, entra veramente una corrente che cambierà il modo di pensare di milioni di ragazzi e anche il modo di concepire la musica. Ascoltiamo, la canzone è tratta da quel capolavoro che è Sgt. Pepper. L'anno è il 1967, in quegli anni i Beatles facevano due dischi l'anno, insomma, avevano una creatività straordinaria. Insomma, siamo veramente al top. Ascoltiamo la canzone e poi diciamo le ultime due cose. Thank you. it's all too late. Let night pass away. Insomma, va da sé che questa non è più una canzone di musica leggera, siamo già in ambito di una musica etnica, no? Quella che poi verrà chiamata world music, insomma, siamo già oltre a quello che era il concetto di musica leggera, che era quella fino a qualche mese prima o qualche anno prima. Il testo, ora non ho tempo, insomma, se vi interessa, c'è chi lo conosce sicuramente meglio di me, insomma, un testo pieno di queste riflessioni filosofiche che vengono dal mondo dello yoga, piuttosto che dal mondo dell'induismo, piuttosto che dal mondo tibetano o himalayano. In questo momento i Beatles incontrano quello che sarà... diventerà famoso poi come il guru dei Beatles, no? Incontrano un personaggio, una figura, e quindi è la prima parola che stasera volevo porre all'attenzione, insomma, di questa sera, perché la parola guru, no? La parola guru è una parola che viene ormai usata, no? Comunemente, il suo significato ormai è quello di maestro, no? Anche se la trascrizione vera, letteraria, guru significa qualcosa di importante, qualcosa di pesante, insomma, poi alla fine per chi si interfaccia con un guru diventa importante questa figura, no? È una figura, quella del guru, che nella nostra cultura occidentale, fino a questo momento era una figura completamente sconosciuta e probabilmente rimane ancora un po' sconosciuta, no? In India questo, il rapporto che c'è fra il guru, il maestro e i discepoli o coloro che seguono questa figura è un rapporto di amore, un rapporto di abbandono totale spesso da parte del discepolo nei confronti del guru. Il guru viene visto come colui che incarna, no, lo spirito divino, no, lo spirito, come colui che ha risvegliato in sé questo principio divino e quindi è se stesso in qualche modo un elemento divino, tant'è vero che i luoghi dove abitano queste figure, queste persone che sono un po' filosofi, sono un po' psicologi, sono un po' maestri a tutto tondo, diventano luoghi di pellegrinaggio, no? I famosi ashram. Allora i Beatles, e soprattutto per Harrison che spinge verso questo approdo, a un certo punto vedono in televisione un'intervista, c'è questo bellissimo documentario che probabilmente tutti avete visto e io non ho ancora visto in realtà, che è questo, quello, no, bellissimo, di Martin Scorsese su George Harrison, dove si racconta in maniera molto più bella, molto più precisa questa storia. Insomma, i Beatles vedono alla televisione questo guru, Maharishi Mahesh Yogi, un guru indiano che è in missione, diciamo così, in Occidente. C'è un certo momento, sia in Occidente che in Oriente, questo bisogno di incrocio, perché in Occidente c'è questo bisogno di una patria, di una nuova patria, di una nuova geografia, che non è soltanto una geografia fisica, ma anche una geografia mentale, no? Si aprono i confini, si spezzano i confini, le barriere non ci sono più, e quindi anche il mondo occidentale si apre, no, nella mente di questi ragazzi verso un'altra geografia, ma anche dall'altra parte, nel mondo dell'Est, no? Nel mondo dell'Oriente, diciamo così, e dell'India in particolare, c'è questo bisogno trasportare no, un messaggio, un insegnamento, una parola verso l'Occidente. Tanto è vero che molti di questi di queste figure, di questi guru che si affacciano in Occidente in quegli anni, verso il 64, il 65, hanno avuto proprio indicazione da parte dei loro maestri. Sapete che, no, c'è questa discendenza fra da maestro a maestro, no? Questo insegnamento orale che si tramanda da maestro e discepolo, che poi a sua volta sarà maestro di altri discepoli e così via. C'è questa indicazione precisa da parte dei maestri di fine Ottocento, diciamo così, di portare il messaggio della cultura induista, chiamano così, o delle mistiche orientali verso l'Occidente. È proprio una missione quella che Maharishi Mahesh, piuttosto che altri maestri indiani, si accingono a fare in quegli anni. Allora è in tournée, diciamo così, in Inghilterra. I Beatles lo vedono in un'intervista, magari c'è qualche figura, qualche foto, lo vedono in questa intervista che è diventata famosa alla televisione, e vanno all'ashram di Maharishi, che è in Scozia, credo, dove c'è questa casa sede dove insegna il suo messaggio, il suo insegnamento. Era bellino anche Allen Ginsberg fotografato così, va bene, ormai. Va bene, insomma, se non c'è è uguale. Non c'è? Forse non c'è, va bene. Fammelo un po' vedere qua. Apri questa qui. Sì, eccolo qua. C'è questo ashram, questa casa sede, diciamo così, su in Scozia. I Beatles vanno, no? Spinti da Harrison e da John Lennon, vanno a incontrare questo. L'avevano già incontrato in una conferenza, in realtà. Dopo la televisione vanno a una conferenza, rimangono colpiti da questo personaggio e decidono di andare a fare un incontro, una serie di incontri, di insegnamenti da parte del Maharishi su in Scozia. Ma nel mentre che sono in ritiro con il Maharishi, muore Brian Epstein, muore il cosiddetto quinto Beatles, un personaggio manager, insomma, un personaggio chiave all'interno dei Beatles, aveva 32 anni, giovanissimo, insomma, muore e loro rimangono fortemente colpiti, abbandonano ovviamente il ritiro per andare al funerale, insomma, colpiti da questo lutto, e rincontreranno poi dopo il Maharishi nel famoso viaggio che i Beatles fanno in India, cioè 7-8 mesi dopo questo primo incontro, questo primo approccio. E sono c'è Harrison intervistato in questo film documentario che dice: sembra quasi che, no, come niente succede per caso. Harrison dice: nel momento in cui viene a mancare Epstein, Brian, che è una figura chiave, no? Una figura che fa da collante, non è un padre, no? per i Beatles, che è poco più grande, però era una figura per loro molto importante, sbandano un po' i ragazzi, no? Insomma, si trovano un po', la terra comincia a frenarli sotto i piedi, non hanno più un coagulante, non hanno più un centro dove poter far ruotare anche le loro follie, no? Insomma, in qualche modo riversano questo bisogno anche di una figura centrale, no? Che possa dare insegnamenti, che possa dare indicazioni, che possa dare consigli nel Maharishi. C'è questo famoso viaggio che tutti abbiamo conosciuto, che tutti conosciamo bene, nella primavera del 68 era già uscito Sgt. Pepper's. I Beatles vanno all'ashram a Rishikesh, che è una cittadina sul fiume sul Gange, sotto l'Himalaya, e vanno nell'ashram di Maharishi. Tutti e quattro ci vanno, sono accompagnati da una serie di amici, c'è l'attrice Mia Farrow, c'è la sua sorella, poi c'è una storia particolare su queste due ragazze, c'è Donovan, no? Che credo fosse era già a Rishikesh prima dell'arrivo dei Beatles. Insomma, c'è questo incontro con il guru, seguono gli insegnamenti del guru, fanno meditazione, suonano molte delle canzoni che poi andranno nell'album seguente, che è il famoso doppio album, quello, il White Album, quello omonimo, sono scritte a Rishikesh. Però la storia, questo amore sboccia fino a un certo punto. Ringo Starr dopo un paio di settimane si è rotto il coglione e ritorna a casa. Non c'era il tè, diciamo. non c'era, insomma, non aveva più voglia. Paul McCartney un po' poino ci sta, ma insomma non coagula, insomma alla fine rimangono soltanto Harrison e John Lennon. E poi c'è questa famosa storia, no, insomma, questo è un gossip, c'è questa storia che il Maharishi, insomma, avrebbe tentato in maniera non tanto spirituale ma molto carnale un approccio rivolto verso le tipe, insomma, decidono. E poi John Lennon scrive Sexy Sadie dedicata al Maharishi. E poi più tardi scrivere anche God, una canzone in cui non crede più in nessuno, ma quella è un'altra storia. E insomma, la figura del guru inizia ad entrare nel mondo occidentale, insomma, si incomincia a ragionare, o comunque si inizia a riflettere su questa figura, no, di una persona che comunque può dare insegnamenti di tipo spirituale, no? La figura del guru in India non c'è una gerarchia un po' come la intendiamo noi, insomma, la figura di riferimento all'interno della ricerca spirituale indiana è il guru, no? Che travalica la casta dei bramini, che travalica tutta una serie anche di strutture, insomma è una figura che incarna in sé un principio divino, e a lui ci si dedica completamente. Allora vediamo un po', io direi di ascoltare un brano e poi ne parliamo insieme. La numero, volevo farvi ascoltare anche una canzone di Donovan, ma che è bellissima, ma non ce la faccio. Ed è la numero 13, e poi vediamo perché ho messo questa canzone. Santana? Sì. Vado? Sì. Santana insieme a John McLaughlin, è un rifacimento del pezzo di John Coltrane che si diceva prima, Love Supreme. E, in quegli anni, io non posso fare la storia di tutti questi artisti, se no non se ne esce vivi stasera, però diciamo in quegli anni Santana, insomma, conosciamo oggi quella figura un po' triste, diciamo così, che ci offre, ma cioè, il 71, 72, 73, insomma nei primi anni 70 ha dato alle stampe una serie di album perlomeno interessanti, se non belli, e anche lui a un certo punto della sua ricerca musicale, ma anche della sua ricerca spirituale, incontra un maestro che è Sri Chinmoy, me la metti da 14, intanto si vede la figura. Incontra questo maestro bengalese, questo guru bengalese, gli è presentato e glielo fa conoscere John McLaughlin. John McLaughlin è uno dei più grandi chitarristi in ambito jazz fusion, è stato l'unico chitarrista bianco alla corte di Miles Davis, con cui ha inciso degli album straordinari. E John McLaughlin, anche lui, come Harrison, è molto vicino al mondo indiano, cioè si sente molto attratto, molto vicino alle tematiche, alle filosofie, alle mistiche orientali, tanto che alla fine abbraccerà, diventerà discepolo di questo maestro bengalese, prenderà un nome, Mahavishnu, no? Con cui poi formerà un gruppo di jazz e rock molto famoso, la Mahavishnu Orchestra, insieme a lui e insieme alla moglie di John Coltrane, Alice Coltrane, anch'essa discepola del maestro Sri Chinmoy, Santana entra in contatto con questo guru, diventa discepolo per una serie di anni. Santana si chiamerà Devadi, che significa Devadi, luce divina, credo, Deva sono gli dei, penso luce divina, qualcosa del genere. E inciderà tutta una serie di dischi che hanno una forte connotazione di derivazione anche orientale. Questo è un disco di John McLaughlin, qui si vede la figura del maestro, insomma tutta una serie di elementi, prima l'avete visti tutti vestiti di bianco, insomma c'è questo passaggio, diciamo così, che anche Santana e McLaughlin, ecco, questo è il testo di McLaughlin, Mahavishnu John McLaughlin, che scrive all'interno del disco, che è una poesia, un atto di devozione e d'amore, di reverenza alla figura del maestro, del guru. E poi ci sarà sempre nel disco un discorso del maestro, mi sono scritto alcune cose, tipo: non si può definire Dio, dice il guru, solo il silenzio può esprimere l'inesprimibile, ma l'azione che più si avvicina ad esprimere l'inesprimibile è la musica. Quindi invita i musicisti come Santana e come McLaughlin a utilizzare lo strumento musicale, utilizzare il suono, no, delle proprie canzoni come strumento per avvicinarsi a un contatto con il divino. Se è vero che il silenzio è lo spazio, è il luogo per l'incontro con questa realtà, no? Transpersonale, è anche vero che la musica comunque si avvicina è l'unica azione che può esprimere questo incontro. C'è un altro personaggio, ce ne sono tanti, in realtà mi diceva prima Carlo che questo avvicinamento alle culture, alle mistiche indiane specifiche, lo dicevo all'inizio, un po' per moda, un po' perché c'è un vero approdo, no, da parte delle persone. In quegli anni moltissimi musicisti si sono avvicinati un po' per gioco o per altro. Per esempio mi diceva anche i Rolling Stones, no? Quanto di più lontano sono i Rolling Stones dalla mistica orientale. Eppure un pezzo come Point in Black, no? Con una figura come Brian Johnson, no? Che anche lì fa un po' da collante fra questi mondi. Oppure, insomma, ci sono veramente decine, se non centinaia di gruppi, sia negli Stati Uniti, sia nell'Inghilterra, sia anche in Italia o in Germania, che in quegli anni si avvicinano a questi concetti, a questi temi. La prima volta che i Beatles sentono il sitar lo sentono negli Stati Uniti, ed è David Crosby e Roger McGuinn dei Byrds che li fanno ascoltare il suono del sitar, quando la prima tournée americana dei Beatles. Quindi anche in ambito della West Coast, no? C'è tutta la musica americana di quegli anni, no? la costa di San Francisco, Los Angeles, tutta la... Com'è? Laurel Canyon. Sì, sì, cioè tutto quel mondo lì, insomma, è anche... E d'altra parte si era visto anche nei Velvet Underground, poi alla fine, no? Che c'è questo incontro, nei Doors stesso, no? The End è un pezzo in cui... la modalità del suono ripercorre, no, certi elementi della musica indiana. Mettiamo la numero solo di sottofondo perché non ce la faccio, la numero 15. La figura del guru non è solo una figura maschile, no? Spesso siamo propensi o siamo abituati o immaginiamo che la figura del guru sia soltanto una figura maschile. Il mio amato Sylvian, l'adorato David Sylvian, adorato da me David Sylvian, fa un disco, ne abbiamo già parlato anche di David Sylvian, quindi non mi sto a ripetere, però lo lascio un po' come sottofondo. Abbiamo parlato un po' di tutti, però va bene, chi se ne frega. Fa questo disco nell'86 che è Dead Bees on a Cake, che è un disco dedicato al principio femminile, dedicato al principio, alla divinità madre, alla divinità femminile, no? alla grande dea che accoglie tutti noi. E quindi l'incontro di Sylvian con questo mondo del principio femminile è anche un incontro con un maestro, con una maestra donna, e che è questa che sentiamo che canta questa lode a Vishnu. È un canto devozionale ripreso, pare, dalla tradizione indiana. C'è il sottofondo, il lavoro di sottofondo è fatto da David Sylvian. Bellissimo. La figura del guru. Che io posso. Perché dici cercatelo? No, se non ce l'avete, cercatelo. Lasciatevi conquistare da questo. No, intendi se ce l'hai qui in vendita. Ah, no, non credo. Ti fai questo muove, non ci sono male. Non lo so. Posso fare una parentesi? Sì. Sono andato in bagno e prima e c'è una filata di DVD di Puccini, cioè te sei l'unico in tutta Lucca a avere Puccini non in vetrina. Vabbè. E parliamo di te, di te, sì, nella Mavismo che non abbiamo. Non perché non l'abbiamo, ma perché l'abbiamo finita, perché è il nostro disco che vendiamo. La figura del guru è una figura importante, abbiamo detto, è in qualche modo incarna questo principio del transpersonale, questo principio. Ora, ci sono temi, parole, no? Come Dio, come che sono parole che in realtà mi riempiono la bocca, ma insomma, no, insomma, sono temi, ragazzi, che no, abbastanza impegnativi, quindi insomma non vorrei urtare, diciamo così, la sensibilità di nessuno, però insomma sono temi talmente grandi che mi sfuggono, no? Che veramente, però insomma quello che facciamo in realtà non è, è solo un gioco, no? Insomma, stiamo qui giocando, stiamo cercando di capire quanto della musica che amiamo si è infiltrato questo mondo orientale. Alla fine il gioco di questa serata è questo, non è quello di approfondire temi come quello che queste filosofie ci propongono. Dicevo, la figura del guru comunque è una figura fondamentale, no? Il rapporto tra il guru e il discepolo è la figura, ed è il rapporto su cui si basa tutto il cammino spirituale orientale. E il guru spesso, o in certi personaggi o in certe figure più importanti, rappresenta, si diceva prima, o incarna in qualche modo questo principio divino, tanto che in alcuni di questi maestri la figura del divino si incarna talmente tanto che vengono chiamati avatar. Ora, la parola avatar è una parola che anche questa è entrata nel nostro lessico normale, perché c'è un gioco su internet o qualcosa, poi è uscito questo film famoso di chi era il film? Di lui, di Cameron, Avatar, e quindi insomma alcuni giocano su internet questa doppia vita, hanno questi avatar, questa sorta di proiezione in un altro mondo virtuale dove vivono un'altra esistenza, un'altra vita, eccetera. Vabbè, ma questo è... Allora, l'avatar è una parola che viene sempre dal mondo indiano, soprattutto dalla cultura vishnuita. Ora, io ho parlato di culture, di filosofia orientale, di mistica orientale, in realtà non è un monolite, insomma, ci sono sfumature, ci sono correnti filosofiche, ovviamente, che nel corso dei secoli, dei millenni, si sono intrecciate, si sono incrociate, si sono abbracciate, si sono divise, si sono scontrate, insomma, no? Ci sono tradizioni vishnuite, ci sono tradizioni shivaite, ci sono tradizioni tantriche, ci sono tradizioni buddiste, ci sono tradizioni... ci sono decine e decine di tradizioni di filosofie che si rincorrono nei secoli e nei millenni della tradizione indiana e orientale in generale. Quella dell'avatar però è una figura che è tipica ed è solo della cultura vishnuita, perché l'avatar è una incarnazione, un principio di Vishnu. Vishnu è una delle grandi figure, una delle tre grandi figure delle divinità indiane: Brahman, Vishnu e Shiva. Vishnu è colui che rappresenta se Brahman è il creatore e Shiva è il distruttore, Vishnu è quello che mantiene, diciamo così, il Dharma, colui che mantiene la legge, colui che dà continuità alla manifestazione della vita. Avatara significa discesa, la parola è una parola sanscrita che significa appunto discesa, appunto questa discesa, no, della, del principio divino in una figura umana, in un maestro. Nella tradizione vishnuita gli avatar o avatara sono 10, l'ultimo grande e l'ultimo avatar che si è palesato e in qualche modo ha riportato la figura dell'avatar è quella di colui che riporta l'ordine nel caos che si è creato nel mondo, diciamo così, a secondo dei cicli, no? C'è tutto un discorso sui cicli che adesso naturalmente non andiamo a approfondire, però diciamo così, si presenta il bisogno di riportare ordine all'interno di un mondo che sta sbandando in qualche modo, e l'avatar incarna questa figura di colui che riporta l'ordine attraverso i suoi insegnamenti. L'ultimo avatar della tradizione vishnuita è Krishna, no? Krishna, anche questa è una figura che conosciamo, comunque è un personaggio che ormai è entrato un po' nel mondo, nel nostro mondo. Krishna muore, perché anche gli avatar muoiono, nel 3102 avanti Cristo. È abbastanza curioso che come nel mondo indiano, dove non esistono date, dove il tempo non è lineare come il nostro, dove il tempo è circolare, no? E le date insomma non sono, alla fine non sono così interessanti, c'è proprio una data precisa, 3102 avanti Cristo, Krishna muore colpito nel tallone, che ricorda un altro tallone, da una freccia. E questo è importante nella cultura indiana, perché nel 3102 inizia un periodo che viene chiamato addio, inizia un periodo terribile per l'umanità, no? L'ultima grande era, no? Un'era di sbandamento, un'era di terribile, buia, oscura, che viene chiamata Kali Yuga. Allora, Krishna è cantato, è stato cantato tantissimo in Oriente, ma è stato cantato anche in Occidente, no? Molti dei nostri amati musicisti, lo stesso David Sylvian, c'è una canzone che volevo farvi ascoltare, ma non ce la faccio, che si chiama Krishna Blue, che è sempre tratta da questo disco, bellissima peraltro. Ascoltiamo un pezzo di quello che è il mantra più famoso dedicato a Krishna nella versione della Radha Krishna Temple. Cos'è la Radha Krishna Temple? Una formazione anglo-indiana prodotta da George Harrison. Harrison, dopo questo primo incontro con il Maharishi e dopo l'abbandono del Maharishi, continua comunque la sua ricerca, no? Un po' sbandando, un po' qua e là, no? Non trovando probabilmente ancora una figura centrale di riferimento, e incontra anche il mondo degli Hare Krishna. Gli Hare Krishna sono in quegli anni una comunità importante di stampo vishnuita, che porta il messaggio del vishnuismo e quindi di Krishna e della Bhagavad Gita, che è il testo fondamentale a cui si rifanno in Occidente. Il loro maestro Swami Bhaktivedanta Prabhupada si chiama, è stato dal suo maestro gli è stata data l'indicazione appunto di portare l'insegnamento della Bhagavad Gita in Occidente. Come altri maestri si è trasferito a New York piuttosto che a Londra, eccetera, e porta avanti questo insegnamento, questa comunità che si crea intorno al messaggio della Bhagavad Gita. Incontra anche George, cioè Harrison incontra questo mondo, lo fa suo, se ne innamora al punto che produce un disco, che è questo disco che andiamo ad ascoltare adesso, un disco di questo gruppo anglo inglese che canta lodi al Signore, lodi, non so, che ho detto, scusa, anglo-indiano, che canta lodi ovviamente al Signore. È uno dei pochi dischi che escono per la Apple, l'etichetta dei Beatles, no? Un'etichetta piuttosto tormentata, che produrrà gli ultimi dischi dei Beatles, alcuni dischi solisti di Lennon, di Harrison, e fra le altre cose pubblica questo disco della Radha Krishna Temple. È la numero 31. 31, bravo. Bravo. Harrison canta, suona la chitarra, suona l'armonium e produce il disco. Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna canto che conosciamo tutti, abbiamo forse anche ballato e cantato un po' tutti. Krishna è una delle figure centrali della spiritualità indiana, se non la figura forse più famosa, più importante per certi versi, delle figure di questo enorme pantheon delle divinità indiane, anche se poi alla fine la religione indiana è una religione monoteista, anche se ci sono veramente decine se non centinaia di figure e di divinità. Krishna rappresenta un po', insomma, forse la figura più importante a cui milioni di devoti si riversano e ne cantano le lodi, ne cantano le storie. La figura di Krishna è una figura, come si vede anche da queste immagini su questo video, che è stata molto raccontata, cioè tutta la storia di Krishna bambino con le fanciulle a Vrindavana nel bosco, insomma questa vita idilliaca di questo bambino azzurro o celeste, quello che fosse, i suoi miracoli, le sue azioni miracolose, eccetera. Però la vera figura di Krishna, nel suo messaggio più mistico, nel suo messaggio più importante, nel suo messaggio più spirituale, lo si ritrova nella Bhagavad Gita, che è un testo più o meno databile intorno al secondo secolo avanti Cristo. Fa parte, è un frammento di un'epopea, quella del Mahabharata, che forse qualcuno conosce o ne ha sentito parlare, che è un testo infinito, penso che sia lungo 10 volte la Bibbia, l'Iliade e qualcos'altro messo insieme, in questi racconti epici della tradizione indiana. E c'è un frammento, diciamo così, una parte, alcuni capitoli di questo Mahabharata sono l'insegnamento della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita significa il canto del Beato, il canto del Signore Beato. È la storia. Gli insegnamenti di Krishna sono riportati all'interno della Bhagavad Gita attraverso un dialogo tra lui, che incarna appunto l'avatar, il Dio fatto carne, il Dio fatto uomo, e il suo arciere Arjuna. C'è questa battaglia famosa questo confronto fra due eserciti sterminati, uno di fronte all'altro in un campo che viene chiamato il Kurukshetra. Poi in realtà il campo del Kurukshetra non è solo un campo che divide due eserciti, ma è il campo dell'anima, no? Cioè, è molto simbolico, insomma, c'è tutta una serie di simbolismi. Il campo del Kurukshetra è il campo che noi dobbiamo coltivare dentro il nostro corpo, dentro la nostra anima, per vincere le nostre battaglie. Insomma, alla fine la battaglia a cui è portato ad agire Krishna, Arjuna, scusate, è la battaglia che ognuno di noi intraprende nei confronti dei propri demoni, delle proprie debolezze o delle proprie anche virtù, insomma, tutta una serie di simbolismi. E nell'insegnamento di Krishna verso Arjuna si ritrova il grande insegnamento dell'induismo in questo testo. Non è solo Harrison che fa le lodi a Krishna in questo disco. Ho cercato, allora, ce ne sarebbe tanti di video da poter vedere e da andare a ricercare anche in ambito punk hardcore. Ho scoperto che c'è un gruppo hardcore punk che fa le lodi a Krishna, ed è meraviglioso vedere questi punkettoni che si buttano a corpo morto sul pubblico e cantano le lodi a Krishna. Ma c'è un gruppo che si chiama Kula Shaker, e vorrei farvelo ascoltare. È un gruppo che ha pubblicato un disco ora recentemente, che si rifà, il primo disco è di 20 anni fa. K si chiamava, K. Kula è una parola che viene sempre dalla tradizione sanscrita, dalla tradizione indiana. Kula significa dopo lo ritrovo, tipo gruppo, tipo cerchia, tipo gruppo che si ritrova, famiglia, ecco, la traduzione più precisa è famiglia, una famiglia che si ritrova agli insegnamenti del maestro. È di tradizione shivaita la parola Kula. Questo brano è Govinda. Govinda è una delle parole, dei nomi che si dà a Krishna. Go significa mucca, o Gopala anche viene chiamato. C'è tutta questa tradizione legata al culto della mucca, al culto del bue. C'è una posizione di yoga che si chiama Gomukhasana, che è la posizione a muso di vacca. Go è la Gomukha. Mucca non significa mucca. Mucca. Go significa mucca. Va bene, una cazzata, ma è così. Allora, il pezzo Govinda è un pezzo live tratto da una trasmissione. C'è. Voglio sapere il numero? No, l'ho visto. Hai trovato? È il 18. Vai. Anche questa è una lode. È l'unica. Penso che sia. Forse. La prima canzone è l'unica canzone in sanscrito che è entrata nel numero uno della classifica inglese. Questa è una canzone che è andata 20 anni fa al numero uno della classifica. I Kula Shaker è un gruppo, diciamo così, dell'ondata Britpop, no? L'abbiamo visto nella serata dedicata anche al Britpop. Questo è un pezzo bellissimo. Però. Sreyo Kailava Chandrika Vitaram Vidda Vadu Jeevan Anandam Budhi Vardhanam Pratipada Sarvatma Snapanam Parama Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Parama Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Thank you. parola avatar ho collegato un'altra parola che anche questa è entrata abbastanza, cioè è forse la parola che più è entrata nel lessico comune nostro, che è quella di karma. Ho detto che l'avatar viene a ripristinare il dharma, no? La legge universale, comunque a ripristinare e a riportare ordine all'interno di una di un'epoca che sta sbandando, diciamo così, no? Verso il caos. Dharma, la parola dharma e la parola karma sono due parole che vanno a braccetto, che vanno a stretto legame, e sono due delle parole su cui si fonda tutta la filosofia indiana, su cui si fonda non solo la filosofia, ma si fonda anche il vivere quotidiano del mondo orientale. È una parola che conosciamo, o perlomeno abbiamo usato, o utilizziamo in maniera a volte anche forse incongrua, o certo, si parla di karma, no? Il tuo karma, il mio karma, eccetera, eccetera. Sul concetto di karma, quindi, andrebbe approfondito in maniera molto più, più decisa, più ampia rispetto a questo elemento che vado a proporvi, che è soltanto un accenno. Si basa appunto tutto il modo di vivere della cultura indiana. Questo è un brano degli Akron Family, lo metto come sottofondo per far vedere comunque che questo incontro fra la mistica orientale, le culture orientali e il mondo del rock non si è fermato agli anni 60. Questo Akron Family è un gruppo di folk americano degli anni 2000, insomma. C'è Devendra Banhart che volevamo ascoltare, insomma c'è tutta una serie anche di figure contemporanee, di artisti contemporanei molto interessanti che continuano questo rapporto, no? Questa fusione, questo matrimonio tra le culture d'Oriente e il rock. Questo peraltro è un pezzo cantato in tibetano, si sente nulla, ma insomma si può alzare un pochino. Un piccolo passaggio, un piccolo assaggio. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Allora, la parola karma è una parola che deriva da una radice sanscrita che è KR, che significa azione, agire. Su questo elemento del karma si è costruita tutta una mistica, ma anche una teoria legata al mondo del culto. La parola karma all'inizio, diciamo così, nei Veda più antichi, quindi nei trattati più antichi indiani, è l'azione rituale, cioè l'unica azione che in qualche modo aiuta a rompere questa catena che il karma ci tiene legati ad un continuo mondo, a un continuo divenire di morti e di rinascite, il famoso samsara della cultura indiana, questa catena che ci tiene avvinchiati a questo mondo è legato alle azioni che noi compiamo, qualunque tipo di azione. Il concetto alla fine del karma è che qualunque tipo di azione, ma in realtà non solo l'azione, qualunque tipo di pensiero voi avete in questo istante, o qualunque tipo di movimento che fate in questo istante, o qualunque tipo di parola che pronunciate in questo istante verbalmente nella mente o la esprimete, qualunque tipo di azione, anche qualunque tipo di non azione, in realtà crea un effetto. È la famosa legge di causa ed effetto. Ogni effetto ha una sua causa ed ogni causa ha un suo principio. Quindi questi due elementi di causa e dell'effetto, in uno c'è compenetrato l'altro, e quindi è una catena, è un cane e un gatto che si muove continuamente la coda, che non riusciamo ad uscire da questo circolo vizioso. Gli indiani basano tutta la loro filosofia, basano tutto il loro cammino spirituale, il loro principio spirituale, su rompere questa catena, su spezzare questa catena, per andare a quello che loro chiamano la moksha, che è la libertà da questi vincoli, la libertà da questa catena che ci tiene incollati a questo mondo di vite, di morti e di rinascite. Quindi l'unica azione che negli antichi testi dei Veda è l'unica azione che può rompere questa catena e che può liberare l'uomo, è l'azione rituale, no? Quindi la parola karma all'inizio, nei tempi più antichi, è legata esclusivamente alle invocazioni, ai riti, ai culti, ai sacrifici, no? Che i bramini facevano. Erano solo loro, diciamo così, i depositari di questa azione, soltanto loro alla fine potevano liberarsi. È chiaro che alla fine qualcuno si sarà anche un po' rotto le scatole di vedere soltanto in una casta. Voi sapete che il mondo indiano antico era suddiviso in caste, se non lo sapete probabilmente ne avete sentito parlare, così insomma. Per cui si arriva a un momento successivo, quando il mondo vedico lascia spazio all'induismo, cioè quindi un passaggio epocale nei secoli, nei millenni più tardi, in cui nasce una nuova via di salvezza che è legata alla conoscenza, alla consapevolezza, quella che gli indiani chiamano la via del Gnana Marga, la via della consapevolezza e della conoscenza. E si arriverà poi alla fine, diciamo, in realtà poi non è alla fine, insomma, in un passaggio ancora successivo ad una nuova via di salvezza che viene chiamata la via del Bhakti, che è quella che si ritrova nella Bhagavad Gita, nel testo che si diceva prima di Krishna, in cui nell'abbandono, la devozione, no? L'azione devozionale non è più soltanto non è più soltanto un'azione che è fattibile da una certa casta di persone, ma l'amore incondizionato verso Krishna, in questo senso, in questo contesto, è un'azione che libera, che può liberare, diciamo così. E quello è per quello che poi alla fine la Bhagavad Gita è diventato il testo più famoso della spiritualità indiana, perché è un testo che parla al popolo, no? Anche l'ultimo contadino del più sperduto paesino delle montagne o delle pianure indiane aveva la possibilità di trovare una via di uscita a questa catena di dolore che è il samsara, semplicemente dedicando la propria vita e ogni azione della propria vita a Krishna, no? Quindi l'azione che libera da questo da questa catena è una azione che inizialmente è legata al culto e ai riti, e poi diventa un'azione anche devozionale, diciamo, un semplice atto d'amore, no? L'atto d'amore verso Krishna può liberare da questa catena. È chiaro che messo in questo contesto significa che ognuno di noi è responsabile della propria vita. Qualunque atto, qualunque elemento succede alla nostra vita o accada nel nostro percorso non è dovuto al destino, non è dovuto al fato, non è dovuto a Tizio, a Caio, è semplicemente colpa o merito nostro, no? Ogni nostro pensiero, ogni nostra azione crea un effetto che non è detto che venga a manifestarsi domani, no? Le parole che io sto raccontando stasera, le bischierate che sto raccontando stasera, non è detto che si ripercuoteranno nella mia vita domani o dopodomani, magari fra un mese, fra un anno, fra 100 anni o fra 100 vite, chi lo sa. Soltanto quando queste gli indiani le chiamano vasana, no? Sono delle impronte che restano una sorta di grande coscienza personale e collettiva. Quando questi elementi trovano modo di fruttificare, no? Trovano un ambiente, un momento, uno spazio e un tempo per poter fruttificare, allora questa azione che è stata magari il seme è stato piantato 100 anni fa o un secondo fa diventa un elemento della tua vita. E quindi la tua vita, non puoi dare la colpa a nessuno della tua vita, soltanto a te stesso. No, c'è un forte senso di responsabilità di ognuno di noi. Ognuno di noi è colui che crea il proprio cammino, il proprio destino. Insomma, è un concetto, no? Abbastanza importante, abbastanza nuovo, no? Che entra nel mondo occidentale anche attraverso le canzoni. E come entra attraverso le canzoni? Sì? Però è strano, no? come concetto, come modo di pensare in una società dove ci sono le caste, no? Dove sembra già che invece te nasci predestinato. Sì. Predestinato all'interno di una casta, sì. Cioè la predestinazione all'interno di una casta o di una vita che in qualche modo è segnata è comunque nella legge del karma, no? C'è comunque una possibilità di liberarti da questo karma, che poi alla fine il karma non è né positivo né negativo, cioè se noi si parla di karma positivo, karma negativo, in realtà è una suddivisione, una contrapposizione che nel pensiero non duale, no? Indiano, non esiste, insomma, qualunque tipo di pensiero, di azione o qualunque tipo di parola che noi facciamo, che sia un'azione, un pensiero buono o cattivo, alla fine produce karma. Soltanto le azioni che non producono karma e che quindi non ci tengono legati a questa catena sono le azioni che non sono legate al frutto, no? Dice Krishna. Agisci senza prendere considerazione al frutto di quello che è, no? Senza considerare il frutto di quello che sarà la tua azione, agisci senza essere attaccato. C'è questo discorso sull'attaccamento, no? che la filosofia indiana, e non solo quella indiana, insomma, ci insegna, ci porta dietro. Come entra questo? La prima volta, non so se è la prima volta, comunque una delle prime volte in cui questa parola entra nel lessico delle canzoni è nuovamente legata ai Beatles. Oh, ragazzi, tanto i Beatles alla fine sono stati precursori di mondi e di visioni in molti campi. La canzone è una canzone di John Lennon, in realtà non è una canzone dei Beatles, è una canzone scritta nel 70, mi sembra, una delle canzoni che sono nel primo album di Lennon, del Lennon solista. Ancora i Beatles in realtà in quel periodo formalmente esistevano, non si erano ancora ufficialmente sciolti, però insomma ognuno stava andando per il proprio karma, stava seguendo il proprio karma. Lennon scrive questa canzone che è Instant Karma ed è la numero 8. Anche questa è una canzone che probabilmente conosciamo. Spero che sia quella tradotta, vediamo un po'. Allora. Sì, sì, sì. Sì. Non si vede? C'è io. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Veramente tardi, non sono neanche a metà di quello che lo so, ma come devo fare? Cioè, non sono neanche a metà di quello che dove volevo arrivare, quindi figuriamoci. Come sempre, ma anche in tre, ma anche in tre. Non si rimane, no, ora, insomma, quanto tempo mi date ancora? Ci abbiamo da fare ancora all'infinito. Allora, Instant Karma. Boh, comunque chi vuole andare via, via. Facciamo così. Quando uno vuole andare via, via. E... No. Mi metti anche... Ciao. Instant Karma, è proprio quello. Mi metti anche... Addio, perso il foglietto qui. La numero... 9. Allora, insomma, diciamo che... Subito aspetta. Sì, no, mettila subito, non c'è tempo. Non c'è tempo, ragazzi. è uno spazio, come dice qui, alla ricerca di un non luogo temporale, ma a me il tempo, ancora non ho vinto il tempo. Alza, alza. Questo c'è anche il testo, meno male. Un'altra canzone legata, no, alla, al concerto di Karma è questa dei Radiohead. Canzone che allo Skystone amiamo moltissimo. Tratta da un disco. Accelerare, ma voglio proporvi un gioco. Un gioco è questo: mettetevi seduti in una posizione anche così, no? E provate, potete chiudere gli occhi o mantenere gli occhi aperti come volete, e provate per un minuto a non pensare a niente. Provate, chiudete gli occhi, potete aiutarvi a ascoltando il vostro respiro, seguendo il vostro respiro. Allora, magari tra di voi ci sono persone che stanno praticando yoga, meditazione da tanti anni, quindi probabilmente no, sono anche riusciti a creare questo spazio vuoto nella mente. Però è molto più probabile, no, che ognuno nella testa abbia avuto una radio accesa, no? Continuo mille parole, mille discorsi, mille ricordi, no? Mille proiezioni, qualcosa dall'esterno che ci ha disturbato, ci ha distolto, qualcosa dall'interno, un ricordo, un'emozione, una sensazione, una percezione, la serata che è noiosa, René che rompe il coglione, questo qui che mi sta accanto che lo sento caldo, caldo, ma che rottura di palle. Cioè, la mente è una radio accesa, Radiohead. Il nome Radiohead del gruppo viene da questo. Quindi i Radiohead sono un gruppo, il testo di Karma Police è un testo, come spesso succede in Tom York, si gioca nell'ironia, si gioca, entrano altri mondi, ma è molto legato alla cultura e alle mistiche orientali. Il nome Radiohead è sì derivato da una canzone da Talking Heads, ma ha questo significato, cioè della mente dell'uomo, Manas la chiamano gli indiani, che è come una scimmia impazzita che salta da un ramo all'altro, insegue sempre un qualcosa, un ricordo, o insegue una proiezione nel futuro, non è mai presente, non è mai ferma, non è mai qui, adesso, dove c'è uno spazio di silenzio, no? Il prossimo tema era quello del tantra, ma non ce la faccio, ragazzi. Non ci si fa. Però vi faccio ascoltare un brano, una canzone. No. Quello che interessava a voi. C'era qualche immagine, magari. No, non ce la facciamo. Secondo me lo fa apposta. Sì, pensa anche. Pensa che tanti li lascia lì. Così, dice, la prossima volta si ritornano per quello. No, però vorrei farvi ascoltare una canzone, un brano. Allora, in realtà i brani che avevo scelto per questo tema del tantra erano più di uno. Uno era un pezzo dei Popol Vuh, tratto da un disco bellissimo che si chiama Osianna Mantra, un kirie, una preghiera di derivazione dell'antico cristianesimo, riportata attraverso le musiche e le modalità delle strutture indiane in questo album, appunto, che coniuga occidente e oriente. Osianna, no, è un termine che viene dalla tradizione cristiana, e mantra è un termine che viene dalla tradizione indiana, un brano molto bello. Però c'è un altro brano, lo lasciamo come sottofondo, che è la numero 21. È un gruppo molto minore, molto poco conosciuto, un gruppo, uno di quei tanti gruppi che nell'epoca psichedelica tra America e Inghilterra hanno prodotto forse un disco, forse due, si sono avvicinati al mondo dell'Oriente, dell'India, un po' per passione, un po' per curiosità, quello che si diceva all'inizio. Lo puoi mettere? È il numero 21. Il gruppo si chiama The Serpent Power, e quindi questo mi dava modo per legarmi al concetto del potere del serpente, che è una delle parole e una delle figure più importanti nel tantrismo. Un po' di volume si può sentire? Il pezzo è lunghissimo, dura forse 20 minuti, molto dorziano. Sì. Il gruppo è un gruppo americano che credo abbia prodotto solo questo disco nel 71. Cioè, l'utilizzo non di strumenti orientali, ma l'utilizzo della chitarra e del mandolino, che ricordano molto le sonorità del sitar. Del 71, credo. Questo perché il potere del serpente, la figura del serpente è all'interno della tradizione tantrica una delle figure chiavi, un po' intanto del pensiero e della mistica orientale. Il serpente rappresenta molte cose, ma nel tantra, nel tantrismo, che è una corrente filosofica che si affaccia intorno al IV, V secolo d.C., e che comunque si riallaccia a culture forse più antiche, addirittura più antiche di millenni, dove il serpente era una divinità, no? C'è questa figura, questa rappresentazione del potere del serpente come il potere di trasformazione nell'uomo, la chiamano la Kundalini, no? La Kundali, la rotolata, no? I serpenti rappresentano sempre, è l'animale che più è a contatto con la terra, l'unico animale o l'animale che più ha contatto con l'elemento terra, striscia, no? Non si solleva, o se si solleva attraverso una potenza e una fierezza che è quella del cobra, no? che si solleva. Una delle figure più belle nella Hatha Yoga è la posizione del cobra, no? Questa figura è questa forza interiore che solleva, no? Un corpo che nel nostro è strutturato attraverso le ossa, ma nel serpente non ha ossa, quindi la possibilità di vincere la forza di gravità e di confrontarsi, di risalire da terra verso l'alto è una forza interiore. Questa forza interiore gli indiani, o il tantra, diciamo così, la individua simbolicamente in questa figura del potere del serpente, che è una potenza che va risvegliata, va anche dominata, perché come nella figura il veleno del serpente può essere curativo, no? Medicina, può essere una medicina, o può essere appunto veleno per l'anima di colui che si appresta a risvegliare questa potenza. Però insomma non abbiamo tempo. Invece un altro tema che volevo e quindi allontanarmi anche un poco da questo mondo indiano, il tantra si può, cioè, no, non ce la faccio. È impossibile, via. Mi incuriosisce più farvi vedere un'altra cosa. Allora, mi allontano un poco dal mondo indiano, no? E gli incontri con le mistiche orientali, la mistica, queste culture non è soltanto l'India. C'è una cultura che è quella islamica dei Sufi, che comunque ha interagito con il mondo del rock, che è entrata nel mondo del rock attraverso una serie di figure che proviamo a accennare solamente, comunque il tempo mi sfugge un po'. E c'è una figura chiave, questo personaggio l'abbiamo già incontrato un sacco di volte nelle nostre serate, che è una figura di un maestro, diciamo così, o di un filosofo, che si chiama Gurdjieff, che noi abbiamo già visto quando abbiamo parlato di Battiato, quando abbiamo parlato di David Sylvian, quando abbiamo parlato dell'album The Lamb dei Genesis. È una figura questa, di questo maestro europeo. Gurdjieff nasce in una zona di confine tra la Russia, all'epoca l'Unione Sovietica, no, forse non era neanche l'Unione Sovietica, era ancora l'impero russo, la Turchia, il mondo mediterraneo, il Medio Oriente, Turchia, Siria, insomma in una zona, non saprei dirvi, forse Turkmenistan o qualcos'altro, insomma quella zona lì. Ed è interessante questo personaggio, perché ha influenzato tantissimo la musica che più piace allo Sky Stone, diciamo così. Non so se la puoi spiegare, ma allo Sky Stone piace molto. È una figura, anche qui insomma, avere tempo, sarebbe interessante andare a approfondire l'insegnamento di Gurdjieff. Però una cosa vorrei dirla sull'insegnamento, viene chiamata la quarta via, l'insegnamento che propone Gurdjieff, che è una sintesi, così come è una sintesi geografica, lui dove è nato, anche il suo pensiero è una sintesi fra il pensiero indiano, cioè una forte componente indiana. Uno degli elementi più importanti del suo insegnamento deriva dal Samkhya, che è una filosofia indiana molto antica, che è molto vicina allo yoga. Però non è soltanto il Samkhya, c'è anche tutta la cultura medio orientale, c'è tutta la cultura cristiana ortodossa del mondo della Russia, del nord Europa, piuttosto che non quella mediterranea legata alla Grecia. Insomma, è un crogiuolo e sintesi di più pensieri, di più filosofie, no? Che si incontrano e che trovano appunto sintesi nel pensiero di questo grande maestro che si chiama Gurdjieff. Gurdjieff ha influenzato tantissimo musicisti come Sylvian il portavoce più importante, quello più riconosciuto, universalmente più riconosciuto del pensiero di Gurdjieff è Kejaret. Kejaret è un discepolo del pensiero gurdjieffiano, diciamo così. Ora, fra i tanti insegnamenti che Gurdjieff ha proposto per dare a ognuno di noi la possibilità di ricordare di se stessi. L'insegnamento di Gurdjieff è il ricordo di sé, no? Cioè, soltanto quando uno ritrova il ricordo di sé può forse incominciare a attingere ad una dimensione diversa che dalla dimensione quotidiana, mondana, che è quella che viviamo normalmente. Uno degli insegnamenti di Gurdjieff, e vorrei metterlo in gioco stasera, è quello dell'arte oggettiva e dell'arte soggettiva. Cioè Gurdjieff nei suoi insegnamenti, Gurdjieff è anche musicista, ha composto delle musiche, in realtà poi l'ha composto un altro musicista, lui non sapeva scrivere la musica, sapeva era un musicista sui generis, che poi è stato portato, sono state queste composizioni al pianoforte sono state portate appunto al successo da Keith Jarrett. Gurdjieff divideva l'arte e la musica in arte oggettiva e arte soggettiva. È interessante perché noi, probabilmente ognuno di noi qui dentro, vive la musica da un punto di vista passionale, cioè è un'emozione la musica, no? Cioè ti leghi a questa canzone, sei legato ad una canzone, a un gruppo, a una composizione, a un'opera, perché comunque ti trasmette un'emozione forte, no? E quindi sei soggettivo. Cioè, quando io dico questa canzone a me piace moltissimo, no? A Fabio dice ma a me non mi sa di nulla, a te ma a me veramente mi fa anche, se la levi mi fa anche un piacere. Cioè ognuno di noi in questo momento sta vivendo nei confronti di questa canzone un'emozione che può essere di repulsione, può essere di attrazione, e questo legame tra voi, tra me, tra te e con questa canzone è un legame che è mediato dai nostri pensieri, è mediato dalla nostra cultura, è mediato dai nostri vissuti, è mediato dalle nostre sensazioni, dalle nostre emozioni. Che è successo? Dicevo di premere un tasto. Vabbè. E quindi Gurdjieff dice che tutta l'arte, o gran parte dell'arte, in musica piuttosto che anche, è solamente un'arte soggettiva, cioè è mediata da una serie di emozioni, di sensazioni che ognuno di noi ha dentro, ed è diversa da te, da me, da te, da... Ognuno di noi sta vivendo in questo istante una relazione con questa canzone, no? In maniera diversa. E lui dice che questa è arte degenerata, cioè a me non interessa questo tipo di arte, no? Perché una volta questa canzone, adesso la state ascoltando e vi fa cagare, oppure bellissimo, ma la riascoltate domani e il vostro atteggiamento, scoprirete un'altra canzone, la canzone è sempre la solita, le note sono sempre le solite, eppure magari fra un giorno, fra due giorni, fra un mese risentirete questa canzone e direte però, cazzo, ne aveva ragione, questo è un pezzo della Madonna, oppure insomma, no, cambia, è molto, molto mutevole, molto cambiata. Gurdjieff dice, a me non interessa questo, cioè l'insegnamento che dà ai suoi discepoli, e molti sono musicisti che vanno alla corte di Gurdjieff, in realtà non vanno alla corte di Gurdjieff perché Gurdjieff muore prima, per esempio il personaggio di cui vi voglio parlare adesso, che è Robert Fripp, andrà agli insegnamenti di Gurdjieff, ma andrà agli insegnamenti dei discepoli di Gurdjieff. Gurdjieff non c'è già più quando nel 75 mi sembra Robert Fripp si avvicina agli insegnamenti di Gurdjieff. Lui dice la vera arte è un'arte oggettiva, no? Un'arte oggettiva è un'arte che non lo fa l'io, che non nasce da un impulso, da un inconscio, da una sensazione, da un'intuizione dell'artista, ma nasce da qualcosa che è oltre, no? Da una supercoscienza, se vogliamo, no? o da un mondo in cui l'io, no? Questo io che è sempre presente, no? Gli assoli di chitarra di Jimi Hendrix sono una dimostrazione di un io, di un ego spropositato, no? Meraviglioso, però è Jimi Hendrix, no? Invece no, l'io è una gabbia, si diceva all'inizio, è qualcosa che ci tiene chiusi, legati a questo mondo del samsara. Dobbiamo oltrepassare questo mondo, no? Dell'ego e dell'io e approdare ad un mondo della supercoscienza, no? O chiamatelo come volete, insomma, il mondo delle idee di Platone, no? E Gurdjieff dice soltanto se si attinge a questo mondo si può realizzare una musica o un'opera d'arte che è un'opera d'arte oggettiva, che è quella che è più vicina alla matematica che non all'arte soggettiva così come la conosciamo. E c'è tutta una serie di insegnamenti che Gurdjieff propone nelle sue scuole, no? Furono fondate moltissime scuole in quegli anni, e molti si avvicinarono. Robert Fripp, chi è Robert Fripp? Robert Fripp è il chitarrista storico dei King Crimson, insomma, penso che in tanti lo conosciamo. Ha fondato uno dei gruppi più importanti del prog inglese, ha scritto alcune delle pagine più belle del prog inglese con i King Crimson, ma è una persona, anche lui, sempre alla ricerca, una persona che profondamente cerca un cammino che dia delle risposte ad un vuoto, ad una ricerca esistenziale. E nel 75 questa ricerca lo porta in una scuola, alla scuola di Gurdjieff, dove vi starà per 10 mesi, insomma non vi racconto la storia perché veramente non ci finisce più. Però una volta che esce da questa scuola, insegnamenti molto duri, la scuola di Gurdjieff, ragazzi, è una scuola dove non solo si studia lo strumento, dove non solo si studiano i testi delle tradizioni antiche, ma dove si lavora, si scavano le fosse, si murano, si fanno i muri, si piantano, si coltiva, oppure si sbucciano le patate in cucina. Cioè è un lavoro molto duro, dove si spezza l'io, dove si tende a spezzare l'io, no? Insomma, lui ne esce trasformato, tanto trasformato che nel giro di pochi anni fonda una sua propria scuola che si chiama la Lega dei Chitarristi. Kraft, che significa? Kraft? No. Kraft? Mestiere, sì, bravo. La Lega dei Chitarristi di Mestiere, che è una scuola di chitarra dove si insegna non solo lo strumento, a suonare la chitarra, in realtà chi va alla scuola di Fripp è già un chitarrista con le palle, ma dove si insegna un cammino che attraverso il suono della chitarra e attraverso lo strumento della chitarra, la chitarra diventa strumento di trasformazione, di trasfigurazione, di un cammino spirituale. Si insegna a suonare la chitarra, si studiano i testi, ma si studia anche la postura. Cioè c'è tutto un lavoro nella scuola di Robert Fripp sulla posizione, sulla postura, che gli deriva non tanto dallo yoga, forse più dal Feldenkrais piuttosto che dal metodo Alexander. Si studia la respirazione e si cucina e si sbucciano le patate e si scambia, e c'è questo rapporto in cui la scuola, la comune, diventa un'unica cosa, no? Il principio di unità nella diversità. Questo principio di unità nella diversità e di trasformazione del suono, e di un suono che trasforma l'uomo, si manifesta in questi concerti che Robert Fripp farà dall'85 in poi con questa scuola di chitarra. Aspetta, è la numero, l'hai trovata? Sono due. Ce n'è due, allora ti dico il numero preciso. 27, 28. È la numero 27, ma prima di metterla ancora un secondo. In cui i concerti della Lega dei chitarristi di mestiere di Robert Fripp sono happening. Non è più un concerto, è quasi un happening che potrebbe stare bene dentro un museo o una manifestazione di arte contemporanea, ma allo stesso tempo è anche un rito, no? Lo vedrete, c'è questa formazione a mandala, a cerchio, ci sono due cerchi, il cerchio interno e il cerchio esterno, quindi il suono che vibra deve riverberare nel cerchio interno di ognuno di noi, ma deve riverberare anche nel cerchio esterno, quindi nell'ambiente in cui si manifesta. E non c'è più l'individualità, no? Non c'è più Fripp, che è uno dei più grandi chitarristi del mondo, spesso è in penombra, spesso sta in disparte e fa suonare gli altri, oppure si limita soltanto a un accordo, a due accordi. È un qualcosa che, non so se, insomma, è musica oggettiva, come direbbe Gurdjieff. When ready, bees whiz until the world becomes the place we wish it to be. L'insegnamento che Fripp assorbe da Gurdjieff è un insegnamento, come dicevo prima, che si fa sintesi di molte culture, di molte filosofie, di molte mistiche. È uno degli elementi più importanti nell'insegnamento di Gurdjieff. Abbiamo parlato del Sankhya, abbiamo parlato anche della mistica cristiana, ma è questo mondo della mistica islamica legata a questo movimento sufi, per il quale la vibrazione è uno degli elementi cardine di tutto questo insegnamento, la vibrazione, il suono che crea, la vibrazione che crea l'universo. Il più importante cantore della mistica sufi è un pakistano, si chiama Nusrat Fateh Ali Khan, che è stato portato al successo internazionale da Peter Gabriel, che l'ha messo sotto contratto per la Real World negli anni 80. Questo è un cantante un po' limitativo, è un artista straordinario, con una delle voci più importanti che si siano mai potute ascoltare nel secolo che si è appena concluso. È morto troppo giovanissimo, ha un problema di cuore, cioè abbastanza giovane per un problema di cuore. E lui, rifacendosi alla mistica sufi, canta queste lodi ad Allah, con parole molto semplici, ma con una voce, un'intensità ed una straordinarietà di interpretazione che ha del mistico. Cioè un'esperienza mistica sentire e vedere Nusrat Fateh Ali Khan in azione. Prima di farvi ascoltare un brano in cui c'è questo incontro tra Nusrat Fateh Ali Khan e il mondo occidentale, voglio farvi vedere un piccolo frammento, è la numero, e poi dopo magari chiudiamo, è la numero 37. Questo è Nusrat Fateh Ali Khan da giovane, quando andava a suonare alle feste, ai matrimoni, andava a cantare queste lodi al Signore. È particolare, insomma, lo vedrete anche voi, c'è proprio una sorta di trasfigurazione nel volto, nei movimenti di questo ragazzo all'inizio. È più giovane, ci sono due frammenti. È quasi come se fosse posseduto, no? Ricorda un po' i tarantolati, diciamo così, della nostra tradizione del sud Italia, no? Dove la vibrazione, il suono, il canto, lui canta con una voce con delle tonalità incredibili, veramente lo trasforma, no? Questo ragazzo così mite d'improvviso diventa il centro del mondo, no? Ed è favoloso. No, guarda perché. Thank you. questo ragazzone, no, che sembra posseduto da chissà quale spirito, da quale demone, è veramente un... questo è un video vecchissimo, una registrazione, no, fatta in una festa, forse era un matrimonio, qualcosa del genere. Questo ragazzone che viene da una tradizione antica, il padre era un cantore quale si chiama il genere, questo tipo di musica o questo genere di musica, il suo nonno, no, cioè anche lì è una tradizione antica che lui tramanda e porta avanti. Ha un'intuizione che è quella appunto di aprire questo mondo del quale anche al mondo occidentale in qualche modo. Peter Gabriel lo scopre, lo porta, prima li fa incidere, con lui incide alcuni brani per la colonna sonora dell'Ultima Tentazione di Cristo, Passion, questo disco bellissimo peraltro di Peter Gabriel che fa colonna sonora al film di Scorsese, e poi se lo porta anche in tournée. Ora, lo Stratfratelli Cane insieme a Peter Gabriel l'abbiamo visto nella serata dedicata a Peter Gabriel, quindi non ve lo ripropongo, però se volete andarlo a scoprire, se già non lo conoscete, è veramente molto interessante. Lo Stratfratelli Cane incrocia le sue strade anche con un altro personaggio che allo Sky Stone piace molto, che è Eddie Vedder. Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam, scrive insieme a Nostra Fratelli Khan e a suo nipote Ustad Fratelli Khan due canzoni per la colonna sonora di un film che è Dead Man Walking, il film che è un atto da cui probabilmente lo conoscete, ma l'avete Tim visto. Robbins. Eh? Tim Robbins. No, è Sean Penn. Sì, no, ma Tim Robbins è il regista, sì. E questo atto d'accusa, diciamo così, nei confronti della pena di morte, quindi un impegno civile importante che Eddie Vedder porta avanti e a cui dà una mano anche il Nostra Fratelli Khan. Ci sono due canzoni in questo film, peraltro molto belle. E l'anno dopo che esce il film, siamo forse nel 97, insomma, Fratelli Khan muore, ha un problema di cuore, insomma, avete visto, è molto grande, non si muoveva più praticamente. Negli ultimi tempi lo portavano in giro con una lettina, una portantina, no? Insomma, c'è un'intervista molto famosa di Jeff Buckley a Nostra Fratelli Khan, insomma, un'altra storia. E un anno o due dopo il film e anche la morte di Nostra Fratelli Khan viene fatto un grande concerto in favore di questo, si chiama Non nel nostro nome, dove partecipano molti musicisti e dove Eddie Vedder, che è uno dei protagonisti ed è uno che porta avanti questo progetto, questa associazione, porterà sul palco uno dei pezzi scritti insieme a Nostra Fratelli Khan, ma lo canta con il nipote, con Ustad Fratelli Khan, che è quello che vediamo adesso. Che devo essere sincero, nella mia ignoranza, nella mia profonda ignoranza della musica quale, c'è un'enorme differenza. Insomma, se si ascolta lo zio e si ascolta lui, sono due cose. Pur essendo molto belle, insomma, anche la sua interpretazione, l'interpretazione che trovate sul disco dello zio è... raggiunge delle cose veramente molto alte. Però per farvi vedere anche per vedere anche un pezzo dal vivo, ho scelto questa versione con Ustad Fratelli Khan, quindi l'ascoltiamo come ultimo brano. C'era un altro tema importante che volevo porvi all'attenzione, che era quello del mondo della cultura zen, il mondo, quindi ancora allontanarmi un po' dall'India, andare ad attingere al Giappone, a questa grande cultura, a questa grande filosofia che è lo Zen, ma non abbiamo più tempo. Il personaggio che avevo scelto per raccontarvi lo Zen era Brian Eno, e quindi magari mi ripropongo di fare una serata su Brian Eno, che magari facciamo anche la cerimonia di tè, ne vale sicuramente la pena. Allora, questo è Eddie Vedder con Ustad Fratelli Khan. La canzone, sì. Bye. figuriamoci, ma abbiamo sforato come non mai i nostri incontri. Insomma, vi ringrazio per la serata. Siamo partiti da una canzone dove si raccontavano di un ragazzo che voleva rimorchiare un'altra ragazza, e siamo finiti con questo brano dove l'artista non racconta più le sue storie, non è lì più per raccontare se stesso, ma è soltanto uno strumento, un mezzo, un ponte, un pontefice tra un qualcosa che sta forse in alto o ci sta intorno, sta semplicemente nel nostro cuore, ed è soltanto un altro strumento, no? È al servizio, no? di questo grande mondo dell'arte che deve comunque trasformare i nostri cuori, o perlomeno questo è l'intento delle mistiche e delle culture orientali in ambito della musica della serata che abbiamo scelto. Io vi ringrazio. Alleluia. Vi faremo una serata su Brianino. Ma che metta un pezzo di chiusura. Sì? Mi raccomando, circoscriva però. Sì. Dimmi te, qui c'è un 41 minuti di No, la prossima volta.